Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, ben ritrovati. Allora, siamo pronti a leggere i giornali. Prima vi ricordo gli ospiti che avremo oggi. Avremo ospite alle 8:15 l'onorevole Mara Carfagna del Popolo della Libertà. E poi, per parlare ovviamente di attualità politica, parleremo poi di lavoro e giovani alle 8:30. Perché? Perché beh, c'è stata la polemica nella fine settimana scorsa di questa ragazza precaria alla kermesse del Partito Democratico, che tra l'altro ha additato anche la figlia di Pietro Ichino dicendo basta nepotismi, basta assumere i figli di... Ma insomma, quello sarà lo spunto. Certo, non ci concentreremo su questa vicenda per parlare di lavoro e giovani, un tema molto molto sentito, ciusi e precari i nostri giovani. Allora, ne parleremo più avanti. Questi gli ospiti, intanto andiamo a leggere i quotidiani. In questo lunedì 11 febbraio, intanto, i titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore apre: cresce ancora l'Italia del sommerso, è un'inchiesta dagli scontrini agli abusi edilizi, la crisi non ferma l'economia nascosta, che è la vera prima economia dell'Italia. Il Corriere della Sera: l'atto d'accusa di Monti, Bersani infantile sull'Unione Europea, Berlusconi compra i voti. Repubblica: Monti Berlusconi, accuse e insulti. La Stampa: Monti Berlusconi compra i voti. L'Unità: chi ha paura del voto disgiunto? Questo è il titolo di prima pagina. Cerchiamo di spiegare, per chi non l'avesse ancora seguito, le ultime cose di campagna elettorale, di cosa si tratta. Il Giornale: Lombardia insicura con la sinistra. Il Giornale riprende l'allarme del consolato americano che ha detto a tutti i connazionali americani: Milano è pericolosa. Monti a Bersani, patto a rischio, così è il titolo di prima pagina del Messaggero. Mentre il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì: Monti spara zero su Berlusconi e PD, e poi un numero praticamente dedicato tutto alla scuola. Abbasso la scuola, questo è il titolo. Sapete che il Fatto Quotidiano del lunedì fa un numero monografico in pratica. Allora, intanto da cosa vogliamo partire? Vogliamo partire da stipendi, costi, palazzo, casta. Insomma, se uno mette insieme queste cose trova alcuni articoli oggi sui giornali. La Stampa fa il calcolo della prima volta fuori dal palazzo senza stipendio e vitalizio. Ci sono alcuni parlamentari, per la precisione sono 186 ex parlamentari che non verranno ricandidati, non sono candidati, e dovranno aspettare i 60 o i 65 anni per la pensione. Scrive Carlo Bertini un'intera pagina, pagina 7. Chiamarli esodati, anche se col paracadute, potrebbe suonare offensivo per gli esodati veri. Dunque il paragone è improprio, pure se l'istituzione per la quale hanno prestato il loro impegno, cioè il Parlamento, li ha lasciati senza stipendio e senza pensione in attesa di raggiungere i nuovi limiti di età. Attenzione però, loro stessi l'anno scorso hanno votato questa riforma, ben sapendo che se cambiavano le regole per tutti gli italiani, stessa cosa doveva valere a maggior ragione per la cosiddetta casta. E dunque c'è chi dovrà aspettare 2 anni come Livia Turco o Walter Veltroni, chi 1 anno come Rutelli, chi 10 come Isabella Bertolini del Popolo della Libertà, per raggiungere l'età per ottenere il vitalizio. Conta 186 nomi questa schiera di onorevoli non ricandidati e rimasti senza pensione grazie alla riforma che l'anno scorso ha cambiato i vitalizi, fissando a 60 anni l'età per poter riscuotere l'assegno, 65 per chi con una sola legislatura. E insomma, sono vittime della loro stessa riforma. Per adeguarsi alla riforma delle pensioni ci sono anche 2 interviste a Giancarlo Mazzucca, che scrive e dice in questa intervista a Fabio Poletti: torna a fare il giornalista, i privilegi non sono più tanti ma vengono utilizzati male a livello di Camera, sono stato io a decidere di non candidarmi più, è stato tutto negativo questa esperienza, ci ho scritto pure un libro che uscirà tra poco, Compagni di Camera, alla fine servi solo per votare sulla base dell'indicazione di partito. E c'è da dire qua, si può aprire una parentesi, sono tutti si lamentano tutti, fanno tutti un'esperienza parlamentare per dire insomma che non serve praticamente a nulla, no? Settimana scorsa avevamo Santo Versace che ha detto peste e corna del Parlamento, e anche Andrea Sarubbi. Invece Andrea Sarubbi, intervistato da Giacomo Galeazzi, è un po' più dolce nei confronti del Parlamento stesso. Certo, c'è molta amarezza perché non sono stato ricandidato, pensavo di aver fatto bene, c'era l'appello di 25 associazioni per la mia ricandidatura, ma sul piano politico manterrò la passione di sempre per l'Italia, con la stessa libertà e indipendenza che ho avuto in questi anni. E dunque, insomma, Andrea Sarubbi un po' meno deluso dalla vicenda politica. Comunque, paese che vai, gradimento della politica che trovi. Guardate il Messaggero a pagina 13. Stati Uniti, i deputati vogliono tagliarsi lo stipendio. Sono già 19 le proposte, racconta Anna Guaita da New York, per tagliare lo stipendio dei deputati. In media un deputato guadagna $174,000 lordi, oltre a godere di un'ottima assicurazione medica, una serie di servizi gratis, foto, stampa, volantini, francobolli, tessera metropolitana d'autobus, contributo per la benzina, oppure prezzi concorrenziali su mensa, barbiere, parrucchiere, palestra. Insomma, vedete che poi non è che tutti se la prendono con i parlamentari italiani, ma vedete che anche negli Stati Uniti è così. Lo speaker della Camera, cioè il portavoce, prende $223,000, mentre i leader dei due partiti al Senato prendono circa $193,000. Il presidente del Senato è, per dettato costituzionale, il vicepresidente, cioè Joe Biden, che riceve uno stipendio di $231,000. Il presidente invece $400,000, questo Obama. Certo, i parlamentari fanno solo quel lavoro. Solo quel lavoro. Comunque vogliono tagliarsi di una percentuale circa del 20% lo stipendio ai cittadini. Non basta. E è un articolo nel quale si spiega che il livello di gradimento sui sondaggi, il tasso di approvazione per i politici non supera il 17% per i politici del Congresso, mentre il presidente Obama naviga tra il 49 e il 51%. Quindi il gradimento dei politici in Parlamento negli Stati Uniti 17%, davvero basso anche lì. A proposito di spese, beh, vi segnalo due articoli. Anzi, uno ce ne faccio forse. E qui il mantra solito è mani sul volante, come sempre. Hanno rispolverato, per la verità, un'inchiesta che scrissi io per il Sole 24 Ore un po' di anni fa sulla vicenda dei tribunali militari. Beh, leggete questa sul Corriere della Sera: 15 dipendenti e 3 magistrati per un solo detenuto. È lo scandalo al Tribunale Militare di Sorveglianza, cioè quel Tribunale Militare a Santa Maria Capua Vetere che deve vigilare sui detenuti militari. Andrea Pasqualetto racconta: sapete quanti sono i detenuti militari? Beh, per anni sono stati praticamente zero, ce ne sono alcuni domiciliari, ma al Tribunale, al carcere proprio militare di Santa Maria Capua Vetere ce n'è uno. Sulla soglia dell'ultimo carcere militare d'Italia, venerdì c'era un uomo distinto con una valigia in mano. Era un condannato, stava varcando quella soglia ignorando forse il primato che andava a stabilire. Unico detenuto nella penisola per reati militari. Il primo recluso, dopo che dall'autunno scorso tra le mura del penitenziario campano non si è visto nemmeno uno. Proprio così, per mesi l'Italia non ha avuto un solo carcerato da codice penale militare. Il che, se da una parte è indicato come un record di civiltà, dall'altra pone un serio problema di costi, perché su questi rari detenuti, ce ne sono infatti 70, ma per reati ordinari, lavora da anni un'intera struttura pubblica, il Tribunale Militare di Sorveglianza, composto da 3 magistrati, 15 dipendenti tra civili e militari, un esborso di circa €1 milione l'anno di sole retribuzioni, magistrati, cancellieri, addetti alle segreterie. Non fanno solo quello, ma la funzione prioritaria va da sé la sorveglianza dei detenuti. Ora si difendono dicendo: ne abbiamo anche 2 domiciliari, altre 5 persone, su altre 5 stiamo decidendo su eventuali misure alternative alla detenzione. In ogni caso sembra davvero uno spreco notevole. Andrea Pasqualetto sul Corriere della Sera: 15 dipendenti e 3 magistrati per un solo detenuto. Lo stesso procuratore generale militare Antonino Intelisano ha detto: fosse per me quel tribunale lo taglierei per insignificanza statistica dei dati. Di questa questione si era occupato anche il nostro CSM, cioè il CSM militare, ovviamente, che non è il CSM normale, ma un CSM a parte, che aveva sollecitato in tal senso la politica, ma non si è arrivati a nulla. Lo vogliamo tagliare? Lo vogliamo togliere? Visto che da anni è lì e praticamente, non dico non serve a nulla, ma le stesse funzioni possono essere ricoperte, magari accorpate, e tagliamo una spesa di 1 milione di euro l'anno, così. Magari da queste piccole cose poi si sistema anche la spesa pubblica di un intero paese. Ci fermiamo qualche minuto. Sette e 36 minuti, eccoci qua, continuiamo a leggere i giornali. Allora, la politica, sono le ultime 2 settimane, ne vedremo e ne sentiremo ovviamente delle belle, i toni si alzano, è normale in campagna elettorale, ieri già ci sono stati dei botte risposta mica male. Allora, Monti ha accusato Berlusconi di comprare i voti. La risposta di Berlusconi, che abbiamo fatto sentire anche alle 6.30 in onda, nel senso in audio, e ieri era ospite in onda sulla 7, Berlusconi ha definito questa una cazzata. Monti ha anche accusato Bersani, ha detto... È infantile quando il PD parla di vittoria di Pirro per quel che riguarda il vertice europeo dedicato al bilancio, dunque Monti ne ha anche per Bersani. Insomma, volano parole molto grosse. Berlusconi ieri se l'è presa ancora anche con Oscar Giannino, dicendo del candidato premier di fare per fermare il declino che vestito così è buono per andare al circo. Sempre questo ospite di La 7. Insomma, sono momenti in cui volano parole grosse. E l'articolo interessante che vi segnalo intanto per partire è di Aldo Cazzullo, che ha seguito un po' nel retroscena ieri della campagna elettorale Mario Monti, quindi ha estorto un po' di parole diverse da quelle ufficiali che vedete pronunciate. Eccolo qui: sono felice di essermi aperto, di averlo fatto coi giovani proprio qui a Milano, nella mia città. Un'emozione bellissima pensare che dicono che non mi emoziono mai e che sono senza cuore. Questo è l'inizio dell'articolo. Con Bersani nessun patto, immorale aspettare il colle, dovevo impegnarmi ora. È un Mario Monti che appunto dietro le quinte racconta alla domanda chi te l'ha fatto fare, lo so anch'io che mi sarebbe convenuto rimanere fermo, non fare nulla, ma avrei trovato profondamente immorale aspettare che maturassero le condizioni per fare il presidente della Repubblica senza prendere un impegno. Avere un ruolo mi pesa, un ruolo politico, ma era l'unico modo per non vanificare il lavoro fatto fin qui. E ancora, dice Monti, abbiamo sorpreso gli italiani senza prestiti che ci avrebbero umiliati, ce l'abbiamo fatta, senza aiuti che avrebbero umiliato la nostra sovranità. Torna sul patto con Bersani e dice: nessun patto, di più nessuna conversazione con Bersani. Noi dobbiamo rivolgerci a tutti i cittadini, raccogliere il consenso degli elettori delusi dalla rivoluzione liberale mancata. Quindi una strategia di quasi equidistanza, almeno in apparenza, tra Bersani e Berlusconi. Dice ancora Monti in questo colloquio con Aldo Cazzullo: siamo un paese dalle straordinarie opportunità, tranne il petrolio abbiamo tutto, intelligenza, bellezza, genialità e senso estetico, che nei secoli hanno prodotto le cose più belle che gli uomini abbiano mai saputo creare nella storia. Infine dedica una battuta anche a Maroni. Proprio la chiusura dell'articolo: alla fine del mio secondo mandato di commissario europeo mi dissero che non sarei stato riconfermato perché, pensate un po', l'UDC voleva il posto per Buttiglione. E allora Maroni rilasciò questa dichiarazione: sono per la riconferma di Monti perché è di Varese. Lo chiamai per ringraziarlo, ma anche per chiedergli di arricchire il suo sostegno con qualche altro argomento. E lui la settimana dopo rilasciò quest'altra dichiarazione: sono per la riconferma di Monti anche perché è di Varese. Così si conclude l'articolo, insomma, con questa battuta scherzante, ironica di Monti sul candidato della Lega del centrodestra per la Regione Lombardia. A proposito di Regione Lombardia, qui entra la questione del voto utile. L'Unità addirittura ci apre l'idea del voto disgiunto. Chi ha paura del voto disgiunto? È il titolo di prima pagina dell'Unità. I montiani, la prima che è stata a lanciarlo è stata la candidata di Monti, Ilaria Borletti Boitoni, che ha detto: si può votare certamente Monti, perché lei è candidata per Monti, ma anche il candidato Ambrosoli della Lombardia, che è il candidato non di Monti, visto che è Albertini il candidato di Monti. Quindi il voto disgiunto, voto cosiddetto utile, almeno per chi ritiene che sia utile di quello schieramento. e il tormento dei moderati, così titola il Corriere della Sera. E c'è oggi, ieri Monti si è pronunciato chiaro, ha detto no, io voterò Albertini, il candidato è quello. Ma c'è un'intervista per esempio a Dell'Ai, candidato e capolista della scelta civica per Monti in Trentino Alto Adige, che rilancia, intervistato da Giacomo Galeazzi per La Stampa, sia al voto disgiunto. Non c'è alcun tradimento né fronda, il nostro appoggio a Ambrosoli è precedente all'indicazione del presidente Monti a favore di Albertini, e quindi rilancia anche Dell'Ai, come dire, si può votare anche Ambrosoli e fare questo voto disgiunto, tanto che Maroni ha attaccato duramente, come titola il Corriere della Sera, c'è un incesto in corso, questa è l'accusa di Roberto Maroni. Sulla vicenda appunto di questo voto disgiunto. Tra l'altro, che succederà adesso? Beh, nelle ultime due settimane di campagna elettorale, visto che ne sentiremo delle belle, ci saranno ancora nuove promesse e nuove proposte e nuovi attacchi, questo statene certi. È interessante leggere l'articolo di Ugo Magri sulla Stampa, pagina 3. Ugo Magri racconta quello che sarà il rush finale di Silvio Berlusconi. Il cavaliere, scrive Magri, vuole riportare all'ovile le sue pecorelle smarrite e dunque nei 12 giorni residui di campagna tenterà di restituire la fede ai tanti berlusconiani che l'hanno persa. Il conto è presto fatto. Tra i voti che il PDL prese nel 2008 e quelli che gli attribuiscono oggi mancano all'appello 7 milioni. E allora stavolta, visto che il piatto piange, che farà Berlusconi? Annunciato che è stato annunciato secondo la strategia di campagna elettorale, che andrà ovunque, soprattutto in radio. Questo per dribblare un po' Sanremo, che inizia domani. Beh, intanto andrà dovunque capiterà, tornerà dalla Gruber, ovunque si aprirà un varco nella par condicio, ma farà soprattutto tantissima radio, racconta La Stampa. Dovunque, dovunque ci sarà la possibilità, dovunque verrà invitato, Silvio Berlusconi andrà. Annuncia Ugo Magri due nuove proposte shock in serbo, ce ne sono in serbo un altro paio, assicura chi, cominciando da Capezzone, è stato tra gli artefici delle precedenti uscite su IMU e milioni di posti di lavoro. Qualcosa ha già detto ieri Berlusconi, forse anticipando la proposta di della impignorabilità della prima casa, divieto di pignorare la prima casa. Questa potrebbe essere la prima proposta. Su questa campagna elettorale Giovanni Sartori, in prima pagina del Corriere della Sera, nell'editoriale è abbastanza duro. Bugie elettorali con le gambe corte, questo è il titolo dell'editoriale, che inizia così: che brutte elezioni. Sino a fine mese la campagna elettorale diventerà rituale in TV, i sondaggi di opinione dovranno essere invece clandestini, poco male. Per mio conto ho già visto e sentito abbastanza. Il primo vincitore per Sartori è Berlusconi, che sicuramente è stato il più bravo di tutti in campagna. Il secondo vincitore si direbbe Grillo. Riempie le piazze, azzecca spesso le critiche che piacciono anche per la loro volgarità. Risulta dai sondaggi che spedirà in Parlamento parecchie brave persone che però sono in grandissima parte digiune di tutto quel che occorre sapere per legiferare e governare. Su queste premesse, mettendo in conto una legge elettorale che è davvero un pasticcio oltre che una porcata, è probabile e anche sperabile che avremo un Parlamento breve nato morto. Beh, addirittura, dice Sartori, è sperabile questo. E poi è interessante capire com'è che il cavaliere batte qualsiasi rivale nell'arte della bugia continua, tale perché ogni volta viene creduta. Il suo genio è stato di inventare un alibi perfetto, la favola che il nostro capo del governo è impotente, che la Costituzione non gli consente di fare nulla. Questo alibi è falso. E poi conclude l'editoriale Sartori: se il suo potere è così impotente, la domanda è perché ci tiene tanto. Lui lo sa, credo di saperlo anch'io, ma è tempo che anche gli elettori lo scoprano, se no peggio anche per loro. Questo Sartori in prima pagina sul Corriere della Sera. Mentre, visto che si è citato Grillo, bisognerebbe capire ma che gli ha fatto Beppe Grillo a Giuliano Ferrara, perché un'antipatia così non si è mai vista. Oggi nell'editoriale del Foglio in prima pagina Ferrara scrive: Grillo porterà alle camere un po' dei suoi e una risata li seppellirà. I comizi di Grillo sono molto affollati, sono impressionanti, bisogna anche tener conto del fatto che siamo in inverno. Non era dunque vero che gli italiani sono così freddolosi che possono votare solo e soltanto in primavera. Ma poi nell'analisi di Beppe Grillo, cosa dobbiamo prepararci? Eccolo qui l'attacco di Ferrara. Secondo me è un ridimensionamento delle ambizioni numeriche di Grillo e delle sue liste. Arriverà come al solito terzo o quarto, proclamerà che i suoi risultati sono un boom rivoluzionario, dirà che è pronta a spazzar via tutto e tutti, sbadiglierà, tuonerà, rutterà, farà spettacoli da sbigliettamento, si preparerà questo sì a far camminare come agenti di un grande boicottaggio i suoi grillini, farà della sceneggiata il motivo dominante della vita delle camere, manterrà la promessa nichilista di registrare le conversazioni, cercare e rendere pubblici documenti riservati, smantellare ogni tipo di linguaggio comune della classe dirigente, farà il Pierino Super o il Giamburrasca all'ennesima potenza, per un po' durerà, poi sarà pian piano abbandonato dalla gente che si troverà mal partito e fuori dal piatto nelle istituzioni politiche rappresentative, finirà tutto con una risata che li seppellirà. Non i partiti, dico i grillini. Questa è l'analisi di Giuliano Ferrara sul Foglio. Com'è come non è, noi andiamo al traffico. Siamo qui allora alle 7:47, l'ultimo articolo che vi segnalo di politica. Se volete è un retroscena che c'è su Repubblica, in prima pagina firma Claudio Tito, e riguarda lo strappo definitivo tra la Chiesa e il Popolo della Libertà. Questo è il titolo, è l'ultimo strappo tra i vertici della Chiesa italiana e il PDL, si è consumato proprio in queste ore, con uno sgarbo che Segreteria di Stato e Presidenza della CEI, cioè la Conferenza dei Vescovi, considerano poco digeribile. Vale a dire questo: il segretario del Popolo della Libertà Angelino Alfano, infatti, dopo aver disertato il concerto col Papa, non prenderà parte nemmeno al tradizionale ricevimento che celebra l'anniversario dei patti lateranensi. Ci sarà Mario Monti in qualità di Presidente del Consiglio, ci sarà il leader UDC. Bersani invece, presente al concerto, ha fatto sapere di non poter partecipare all'appuntamento, ma secondo Repubblica è un po' il segno di uno strappo. A meno di un cambio di programma dell'ultima ora, e oggi vedremo se ci saranno smentite a quest'articolo, domani pomeriggio nella sede dell'ambasciata italiana, la Santa Sede, non ci sarà nessuno dei big del Popolo della Libertà. E per Repubblica l'articolo poi continua a pagina 3, è un PDL assente ai patti lateranensi, l'ultimo strappo con la Chiesa. Questo l'articolo che trovate. Allora, io vorrei andare alla prima pagina del Sole 24 Ore, perché ci sono come al solito dei dati molto concreti che davvero sono impietosi. È un'analisi sull'Italia del sommerso, dall'evasione fiscale in senso stretto fino alla corruzione, alla criminalità organizzata. Un'Italia del sommerso che non arretra, anzi resiste alla crisi. Il bilancio delle ultime operazioni di Guardia di Finanza su scontrini, welfare, evasione internazionale dimostrano che l'economia irregolare ha una capacità di affrontare la congiuntura economica sfavorevole superiore a quelle delle imprese in chiaro. Cioè, tradotto, vuol dire che il nero è ancora la prima economia italiana. Tutto quello che è sommerso, che comprende tutto, dall'evasione, gli abusi edilizi, gli affitti in nero, gli scontrini evasi, la corruzione. E a pagina 2-3 l'Italia sommersa non sente la crisi. Ci sono tanti dati appunto sulle tematiche degli abusi edilizi, le frodi comunitarie, la contraffazione, il welfare, l'immigrazione, il lavoro, l'evasione internazionale, la criminalità organizzata, settore per settore quanto fruttano, o bisognerebbe dire quanto queste persone sfruttano del nostro paese. C'era anche un uomo che incassava la pensione della madre morta da 20 anni, tra le 14 persone appena denunciate dalla Guardia di Finanza a Genova, 14 persone che hanno continuato a riscuotere assegni di soggetti detenuti tra il 90 e il 2011, sottraendo all'INPS 740.000 euro. Questo è l'inizio dell'inchiesta, è solo uno dei tanti casi di truffe che vengono scoperte, un caso limite forse, ma indicativo di un paese che tra evasione fiscale, criminalità organizzata, truffa e danni del settore pubblico ha fatto del sommerso la sua prima industria. Secondo le ultime rilevazioni della Banca d'Italia, nel 2012 il prodotto interno lordo ufficiale ha perso il 2,1%. Sul sommerso non esistono stime così precise, ma tutti gli indicatori lasciano pensare che ci sia stata una crescita o al limite un arretramento più contenuto di quello sofferto dalle imprese in regola. Cioè, insomma, il PIL, se si potesse definire il PIL del sommerso, non è così in crisi come il PIL, quello ufficiale. E qui trovate l'inchiesta appunto a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Per quel che riguarda la cronaca invece c'è la polemica su Milano. Allora, Milano è sicura o insicura? Perché il console americano che ha sede a Milano, ha emanato questo warning, questa lettera, questa mail a tutti i residenti, a tutti coloro che vengono dagli Stati Uniti a Milano, a dire state attenti, è una città insicura. Pisapia, il sindaco di Milano, si è detto amareggiato per l'allarme americano, così titola il Corriere della Sera, pagina 10. La giornata inizia con una reazione anche di più, infastidita. Sono molto rammaricato. Credo che il console debba dare dei chiarimenti. Il giornale attacca, emette ovviamente, siamo in campagna elettorale, il titolo in prima pagina, Lombardia insicura con la sinistra, troppa violenza in città, la Milano di sinistra mette in allarme gli Stati Uniti, così a pagina 3 Luca Fazzo, c'è anche un'intervista a Daniela Santanchè che dice hanno smantellato la sicurezza, per esempio è stato un errore togliere i soldati dalle strade. Insomma, Milano è sicura o non è sicura? Questo è il tema di cronaca che trovate più sviluppato sui giornali. E poi c'è Sanremo. Tenete duro, per chi non lo vedrà, sabato finisce. E per chi invece lo vedrà, inizia questa kermesse di gioia che si accompagna sempre alle solite polemiche. Le polemiche, non è ancora partito e già ve le segnalo dai giornali. Una in prima pagina di Repubblica, domani ci sarà un bacio tra gay sul palco di Sanremo. Nella prima serata del festival, domani, Stefano Olivari e Federico Novari, due fidanzati che il giorno di San Valentino si sposeranno a New York, autori di un video che spopola, così scrive sul sito Repubblica.it, hanno annunciato che si baceranno sul palco dell'Ariston. Ed ecco già, questa è la prima polemica. Seconda polemica, arriva Crozza, domani primo ospite, Fazio ha detto potrà dire come sempre quello che vuole, ed ecco il giornale, Crozza guida l'armata rossa di Sanremo, Maurizio ospite all'esordio, farà quello che vorrà, e i giurati radical chic, i reduci del concertone, ci sarà davvero anche il coro ex sovietico surreale, così Laura Rio su il giornale. Terza polemica, per la verità questa è un po' rientrata, c'è il cantante degli Alma Megretta, per il quale è stato risolto il primo caso perché si è convertito all'ebraismo, e dunque venerdì, quando ci sarà la serata commemorativa del festival, lui dice io per rispetto della Shabbat non posso cantare e quindi registrerà. Ecco, questa almeno è stata risolta. Polemiche su polemiche su polemiche. Parte il Festival di Sanremo, non sarebbe Festival di Sanremo senza polemiche. Devo leggere il titolo della Gazzetta dello Sport, ma sì, segna Milito, riecco l'Inter. Questo è il titolo dedicato alla vittoria dell'Inter ieri con il Chievo in prima pagina della Gazzetta. Ci ritroviamo dopo le 8 con gli ospiti, ora il giornale radio.